va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla conduzione tecnica Simone. Une. Ed è venerdì. Venerdì 17 giugno. Non temiamo niente. Assolutamente. Cioè, l'inizio della fine. La 20ª puntata della 3ª edizione della 4ª era di Piazza Alta. E via. Questa sera musica. Ma ci sono anche delle cose che progrediscono e altre che non cambiano. Tra l'altro una grossissima novità. Da un paio di giorni abbiamo la diretta anche streaming sul nostro sito www.radiof.it. O audio o video, sì, sia audio che video, vale, e ci possono vedere in diretta i nostri amici in questo momento, se volessero avere questo coraggio. No, però non vale, perché fino ad ora avevamo preferito la radio proprio perché le nostre immagini non venivano trasmesse. Ora non abbiamo più scusato. È l'evoluzione delle cose. Questa sera parleremo di un argomento di cui io personalmente ne so poco, ma perché la mia ignoranza è sconfinata, la colpa è mia. E ma devo dire, Enzo, che proprio per questo ci sono io, che come te mi sono ritrovato veramente ignorante. Avremo un ospite che ce ne parlerà, ma di questo ne parliamo fra poco, perché adesso andiamo con il primo brano, che è già un indizio, se vogliamo. Giusto, Simone? Beh, direi di sì. Anzi, tra l'altro, il nostro ospite, che ancora non presentiamo, gli chiederò di annunciare e disannunciare i brani, perché io non voglio fare figuracce. Andiamo con il primo. Buon ascolto. Just train, got a mind of its own. Joe Bonamassa. Aspetta, The Train. This Train, l'avevo preparato e l'ho sbagliato. Provato, lo stesso, ma non ce l'hai fatta. Ma non importa. Ti vogliamo bene lo stesso. Allora, questa è Piazza Alta, dicevamo. Caro mio Marci, ricordiamo velocemente come ascoltarci, come vederci. Ormai i canali ormai sono molteplici. Ormai diventa imbarazzante, perché c'è talmente tanti modi per ascoltarci, per ascoltare Radio F, che è quasi veramente incredibile non decidere. Nel modo tradizionale, con le frequenze... Io sopra te sotto. 80... No, no, vai avanti, vai siamo avanti. Via... certo, abbiamo tre piani sulla guida. Allora, in modo tradizionale... 89.2 in FM. Oppure? Oppure in streaming. www.radiof.it. Che non è più solo uno streaming audio, ma è anche video a questo video, punto. Video, e questo perché ve lo meritavate. Oppure con le nostre app Radio F, digitate Radio F e ci trovate. Uno smartphone. Ma... ah, oppure potete anche whatsapparci al 392 490 800 e potete dirci quello che pensate di noi. Potete commentare in diretta, lo potete siate anche magnanimi. Dire domattina con calma. Magari se ci dormite la notte. Se... è meglio, porta consiglio. Ma questa sera, caro il mio Marci, stasera grande puntata. Sì, ci eleviamo sempre di più, qualitativamente veramente... E non per merito nostro, sei chiaro? Ora sono entrato con questa... No, ovvero, parliamo di... Torrita Blues. Torrita Blues. Il festival che da 28 anni. Uno dei festival più longevi che... d'Italia. D'Italia. È uno dei più importanti. La voce che avete sentito è quella direi del... di presentare il nostro ospite. Del presidente, niente fondatore del festival Torrita Blues, ovvero Luca Romani. Buonasera. Benvenuto. Grazie, grazie davvero. È davvero un piacere. Un piacere prima di tutto perché si parla di blues e poi perché avete obiettivamente dato lustro a questa ormai pluriennale o diciamo... pluriventennale Torrita Blues, quindi davvero per me è un piacere. E tra l'altro vi devo dire, sempre con piacere, che il pezzo che avete ascoltato, sì? Che poi è già il grandissimo Joe Bonamassa, uno delle vedette emergenti del panorama blues mondiale a questo punto, dà proprio lustro in maniera particolare a uno degli ospiti del Torrita Blues della 28esima edizione, che è Dana Fuchs, perché lei deve la fama in questo ultimo periodo e quindi che l'ha lanciata nel circuito internazionale avendo suonato con Joe Bonamassa in un disco che è l'ultimo che lui ha scritto, una cover della grande Etta James, che forse è la canzone d'amore più bella che Etta James ha scritto, che si chiama Hide Rider Go Blind, e che insieme a Joe Bonamassa, che fa gli assoli alla chitarra, è un pezzo splendido. Credo lo ascolterete senza Joe Bonamassa, ma lo ascolteremo sicuramente il 24 di giugno a Torino. Ecco, quello che voglio subito sottolineare è la passione con cui parli di queste cose, Luca, perché si sente che, come ci dicevi fuori onda, è proprio una ragione di vita ormai il blues per te e credo anche per gli amici che insieme a te collaborano per fare quello che siete riusciti a fare, siete riusciti a portare avanti. Io mi ero preparato una serie di domande, ma so già che non andrà così. Io, se mi permetti, Enzo, siccome avevo cercato un po' di prepararmi anche sull'argomento, perché... mi piace, però mi sono reso conto veramente che la materia, diciamo, l'argomento blues è sconfinato. Siccome hai appena detto che ci sono, hai usato il termine emergente per raccontare di un ospite che avrete il 24, mi sembra, a Torrita, volevo in pochissime parole, perché ho capito che, diciamo, la storia del blues è relativamente recente come tipologia di musica, ma poi ha avuto infinite derivazioni, ha dato la vita a tantissime altre forme di musica, e si parla ancora di personaggi emergenti, di musicisti emergenti. In poche parole, ci puoi dire il blues cos'è e dove va, diciamo? Ma la domanda è bellissima. L'ho trovata scritta. È bellissima, sì, sì, immagino, è bellissima anche perché il blues è, diciamo, è vita, il blues è sostanzialmente quello che un essere umano prova di fronte alle difficoltà e alle gioie della vita. È proprio nato così, perché il blues nasce da questa generazione nera che, vedi, la storia si ripete, perché venivano presi con dei barconi, venivano catturati in Africa, e con delle navi venivano portati negli Stati Uniti, in questo caso, o dell'America del Sud, o dell'America in particolare, nella zona del sud degli Stati Uniti, perché avevano bisogno di coltivare il cotone all'epoca. Quindi prendevano questi schiavi, li portavano in America, e loro l'unico modo che avevano per raccontare, tant'è vero che nasce in maniera orale il blues, perché prima si raccontavano le storie, poi fu cantata, dopodiché fu con strumenti rudimentali musicata, fino a poi a dare origine, e te l'hai accennato, a quella che è la musica che noi ascoltiamo oggi, perché il blues ha dato origine a tutta la musica moderna. Qualcuno mi domanda che è il blues, poi l'ascolto e dico questo è il blues, perché spesso non potendoci addentrare nella scala armonica delle famose cinque battute, uno immagina chissà che sia. Ha dato origine proprio davvero a tutta la musica moderna. Una piccola particolarità, un gruppo famosissimo, per me mitico, che sono Led Zeppelin. Pensate che il primo LP che Led Zeppelin hanno scritto, diciamo che non hanno scritto, perché non è, nel primo LP nemmeno un pezzo era loro, ma erano tutte cover di grandi artisti e di bluesman americani. Quindi immaginate il grande successo. Prima LP non avevo scritto neanche un pezzo. Quindi possiamo dire che stasera stiamo parlando proprio delle radici della musica, delle sorgenti della musica moderna. Sicuramente. Io vado via. No, perché non sono in grado di affrontare un argomento del genere. No, me ne assumo le responsabilità di quello che dico, quindi perfetto. Se gli ascoltatori hanno qualche cosa. No, mettevo in dubbio, anzi. Ecco, in brevissimo abbiamo detto un po' quali sono le origini del blues. So che potremmo parlarne per ore e ore. Sì. Vediamo un po' se durante la serata, poi durante la trasmissione, ritorniamo sull'argomento. Io però sono curioso e delle domande proprio semplici te le devo fare. Abbiamo detto che sei presidente fin dalla fondazione di questo festival di Torita Blues, che nasce 28 anni fa. Ecco, perché nasce Torita Blues? Cioè, vi siete trovati una sera? Vi racconto come è nato. L'aneddoto proprio. È nato perché... ovviamente nella mia generazione noi ascoltavamo quella che poi è la musica davvero più importante, mi riferisco ai Cream, alle Zeppelin, ai Doors, ai Rolling Stones, che facevano cover blues perché nascono così, e quindi non capivo il perché alcuni non le firmassero, e quindi non capivo perché appunto dei pezzi di Clapton ci fosse scritto Morganfield, che poi era Muddy Waters, e quindi ho scoperto il blues tornando indietro rispetto alla musica che io ascoltavo. Questa grande passione mi portava a un festival, che all'epoca era davvero un festival blues, che era Pistoria Blues. Sì. Avevo in mente io di organizzare un concerto blues, vista la mia passione, e chi meglio di un italiano. Quindi nel backstage di Pistoia Blues chiamai Fabio Treves, che dopo il concerto si avvicinò, e io gli dissi, dico, guarda Fabio, volevo organizzare un concerto per una festa a Torita di Siena. Era nel 1988. E lui mi disse di che festa si tratta. Era una festa che a lui non è che si diceva molto, perché all'epoca lui era consigliere comunale di Democrazia Proletaria, e quindi la festa non era proprio in sintonia con la sua, però siccome mi disse la musica la passione, non ha colore, giustamente non ha colore. Quindi organizziamo questo concerto, Sventolo l'Italia, ci siamo qualificati. E quindi si fece questo concerto a Torrita e venne una marea di gente. E Treves mi dice, Luca, ma come mai c'è tutta questa passione del blues? Dico, non lo so, sta di fatto che comunque questa cosa è un grande successo. Ma perché non organizzi un festival? Avevi dato già una risposta, magari a un bisogno latente. Sì, diciamo che non comprendevo, perché davvero fu una cosa straordinaria della gente che venne a sentire questo Fabio Treves. Dopodiché mi disse, perché non organizzi un festival? Dico, ma come si fa? Prima di tutto ci vuole i soldi, dopodiché vediamo se io con i miei amici riesco a concretizzare queste cose. Ebbene, ci siamo sentiti qualche mese dopo, io avevo delle amicizie e delle conoscenze, trovai un po' di soldi, all'epoca qualche milione, e dissi, Fabio, io ho questi soldi. Credo, non lo vidi, ma il telefono credo che non è non mi sembra così entusiasta della cifra sera che io avevo raccolto, però mi disse, va bene. Si fa ugualmente, infatti la prima edizione, siccome tra l'altro per avere questi soldi non li potevo avere come Luca Romani, perché ovviamente come persona fisica dovevo creare un'associazione. Allora andai alla ricerca a Torrita di persone che fossero interessate o appassionate a questa musica e fondammo questa associazione per caso, andando a cercare queste persone, dove ricostituì questa associazione culturale Amici del Blues, ai quali feci contribuire i soldi che avevo preso da delle istituzioni. Con questi soldi Treves mi portò anche un service da Bologna, quindi venne lui, il primo festival Fabio Treves, Guido Toffoletti, Big Fat Mama e Stefano Zappello, erano tre amici suoi, ecco, facevano due serate e nacque la prima edizione del Torita Blues, per una combinazione così strana tra la voglia di organizzare blues e tra la voglia di Fabio di organizzarlo in Toscana, in questo caso a Torino. Ed erano 28 anni fa. Sì, direi che possiamo fermarci qua perché abbiamo dato, se vogliamo, i punti di partenza del blues e di Torrita Blues. Quindi ci ascoltiamo un altro brano che stasera, indovinate un po', è di blues, non ci mancherebbe altro, e poi ci ritroviamo insieme. I got my sign in the window, I got my lock on the door, I'm going fishing for some sweet, sweet ammo. Now if I catch a barracuda, I got to throw it back in the sea. You see, I've had my share of barracuda, yes and yes sir. I'm going fishing, I'm going fishing, I'm going fishing to see what I can catch. And it ain't nothing but I'm gonna make my hound on fish. So no. Now everybody ask me, what kind of bait are you? It ain't to beat, it's how you wait. I learned that at fishing school. I got a lot of patience, I'm gentle and real kind. Sooner or later, some of the fish is tricking to my line. I'm gone fishing, gonna see what I can catch. And if ain't nothing but I'm gonna make my hound on fish. Tender and so sweet, I caught what wanting to see. If let you knock me off my feet, had my booty rocking, I'm curling on my port. Nobody knows about that place, my secret fishing hole. Gone fishing, I'm gonna see what I can catch. Showed up, and it ain't nothing but I'm gonna make my hound go fish. I'm gone fishing, I'm gone fishing, I'm gone fishing. I got my sign in the window, I got my lock on the door, I'm going fishing for some sweet, sweet apple. I'm gone fishing. Man, it's bad out here. If I don't catch something soon, I'm gonna have to put my stuff in dry down. Hey, Mo. Yeah. Maybe you need another fishing pole. Man, I don't play that. I'm gone fishing, I'm gone fishing, I'm gone fishing, I'm gone fishing, oh, I'm gone fishing. Rogers Band con I'm Going Fishing. Il mio inglese stasera, stasera ti sta superando. No, ma in realtà Luca, che è il nostro ospite, Luca Romani, presidente del Festival Torrita Blues, che si svolge ormai da 28 anni a Torrita, cerca di dirmi le pronunce giuste, ma è una battaglia persa. Abbiate pazienza voi tutti estimatori di questa musica, purtroppo è così. Ma sai, gli estimatori di questa musica sono tutte persone intelligenti. E quindi non tutte, e comprensive. Comprensive soprattutto. Allora, stavamo parlando appunto, abbiamo detto un po' della nascita sia del festival che del blues, ovviamente un velocissimo accenno. Ti volevo chiedere, Luca, prima di venire poi a questa edizione che parte la settimana prossima, solo un altro dato per far capire magari agli amici che ci ascoltano di che cosa la stiamo portata. Parlando, la portata, ecco, che su che numeri di presenze andiamo ogni anno all'incirca del festival? Ma sicuramente circa 3.000 persone vengono a Torita Blues. In quante sere? In tre sere, ecco, quindi un migliaio di persone a sera, a volte dipende anche dall'artista, e comunque mediamente questa è, e tra l'altro pubblico pagante, che non è poco, quindi questo cambia totalmente la dimensione della cifra che hai detto, perché è vero, assolutamente. Perfetto, musico pagante tra l'altro da tutta Italia, cioè è straordinario, veramente quasi commovente. Immaginate, viene gente da Trento, dalla Sicilia, da Bolzano. Scusami, questo che vuol dire? Che in giro non ci sono tanti festival di questo tipo? O che è di alta qualità Torita Blues. Ecco, o Torita Blues è si distingue, diciamo, nel panorama nazionale? Sì, tutte e due le cose, direi. Nel senso che con un po' di orgoglio vi devo dire che a questo livello non ce ne sono tanti. Soprattutto perché teniamo l'asticella più alta possibile, ovviamente compatibilmente, non tanto per un problema economico quanto per le tournée che gli artisti americani fanno in Europa, perché a volte non è il non prendere quello o prendere quello, perché ovviamente non ce la faremo a chiamarli direttamente dagli Stati Uniti, certo, pagando i voli e tutto. Quindi una delle componenti che ci porta poi a costruire il festival o la scaletta del festival è il fatto che siamo in tournée europea, e quindi ovviamente noi riusciamo, perché davvero abbiamo questo grande, da parte soprattutto in Europa abbiamo un grande credito, e quindi anche gli artisti che vengono in tournée europea, se devono scegliere una data in Italia, ecco, Torrita è una di quelle che comunque gli fa gioco, gli dà prestigio, quindi, per tutta una serie di motivi. Cioè siamo arrivati proprio al massimo, il fatto che l'artista ci tenga ad esserci a Torrita e non doverlo tra virgolette pregare di venire, ma anzi un onore per loro che vengono invitati da voi, insomma. No, è straordinaria questa cosa, certo. ma è così. Bellissimo. È così anche perché tra l'altro, immaginate, il Torrita Blues fa parte della Blues Foundation, che è un'organizzazione mondiale. Gli americani non è che basta dargli $100 che ti iscrivi, vogliono capire e venire a vedere di che cosa si tratta. Nel caso di Torrita è venuto proprio il presidente, si chiama Jay Sileman, che è venuto a Torrita perché era in Europa, è venuto a vedere che cos'era sto Torrita Blues. Quell'anno noi avevamo dei grandissimi artisti, avevamo Taj Mahal, Betty Lavette, quindi avevamo davvero un cartellone di grande prestigio. E questa piazzetta medievale, tutta questa gente, questi grandi artisti, rimase davvero affascinato, tant'è vero che l'anno dopo ci ha ospitato, oltre ovviamente averci inserito questa prestigiosa organizzazione, eravamo ospiti a Memphis proprio dei Grammy Blues Awards. Tant'è vero che io immeritatamente faccio parte insieme a altri amici del Torita Blues, perché siamo in tre, e votiamo per corrispondenza in base alle nomination dei Blues Grammy Awards. E noi eravamo ospiti a Memphis, tra l'altro nel tavolo con lui, quindi immaginate che tipo di soddisfazione ha avuto questa storia. Io ora inizio a darti del lei, scusa, non sapevo queste cose, quindi ti ho dato del tu. Ovviamente è una battuta, ma sto dicendo sul serio, nel senso che insomma stiamo parlando di nel settore a livello mondiale praticamente. Sicuramente. Questo non è poco, ma è inutile anche dirlo. Ecco, ma non senti un po' questa responsabilità ogni anno quando vai a scegliere gli artisti? Enorme, tutti gli anni mi impressiona, anche perché oltre che essere un fatto economico, un fatto proprio di trovare tutti gli anni un cartellone che sia all'altezza della situazione, perché a Torita non domandano più nemmeno chi c'è, ti domandano quando c'è, perché sanno che al di là della conoscenza specifica del personaggio, che può essere Piemone, sanno comunque che ascolteranno della grande musica e dei grandi artisti. E quindi questo è quello che succede a Torita. Lo dico straordinariamente, perché è una cosa più grossa di noi, è davvero più grossa di noi. Immaginate che quando siamo andati a Bruxelles, perché noi oltre che alla Blues Foundation facciamo parte anche di un'organizzazione europea che si chiama l'European Blues Union, e tutti gli anni noi ci incontriamo come membri e discutiamo di dove fare, facciamo una sorta di festival europeo, di chi organizzerà l'anno successivo questa cosa. Voi quest'anno avete organizzato? Perfettamente, noi quest'anno siamo diventati capitale europea del blues, apposta perché a Bruxelles, dove si svolgeva l'European Blues Challenge, ci siamo candidati e abbiamo detto quest'anno, dopo aver fatto una selezione italiana, averne parlato nella neonata Italian Blues Union, abbiamo parlato e abbiamo detto Torrita secondo noi è pronta per poter organizzare in Italia questo evento. Siamo andati a Bruxelles, abbiamo descritto che cosa avremmo fatto a Torrita e a votazione, cioè io non conoscevo nessuno e quindi non è che uno gli spagnoli piuttosto che norvegesi, che gli ungheresi, quindi io, abbiamo esposto il progetto, credo che abbia obiettivamente influito molto il fatto che si svolgesse in Toscana, perché la Toscana ha un grande appeal in Europa, esatto. Un grande appeal in Europa. Poi provincia di Siena, quindi Torrita di Siena. Più? Credo che questa componente geografica e anche culturale o di zona dell'Italia abbia influito. Però di fatto siamo andati a votare, è stato quasi un plebiscito. Eravamo in concorrenza con una città norvegese che ha dei grandi mezzi, organizza, ecco, qui davvero un grandissimo festival con tantissimi soldi. Hanno addirittura una mega struttura enorme dove hanno sala di registrazione, sala concerti. Addirittura gliel'ha inaugurata Morgan Freeman. Però. Perché Morgan Freeman è un grandissimo appassionato di blues, poi dopo vi dirò il perché. Secondo me li ha traditi il clima. È probabile. Sicuramente ha influito sicuramente. Senti, ricordo male, contestualizzo bene o c'è stato anche per esempio collaterali dei concorsi che hanno coinvolto anche delle scuole, dei bambini? Sì. No, mi pregio perché sono stato indirettamente coinvolto e ti volevo dire che è stata un'iniziativa che, avendo coinvolto le scuole anche dei paesi limitrofi, ha richiamato molto interesse anche proprio anche su livelli di età piuttosto bassi. Diciamo che forse uno scopo anche di Torrita Blues è instillare nelle giovani leve l'amore per il blues. Nasce da qui l'idea, che non è tra l'altro la mia perché non ho nessun merito, ma di Alessandro Giannini, che è un componente dell'associazione, il quale ha proposto appunto a noi dicendo ma se si facesse, perché avevamo già avuto esperienze nelle scuole, siamo stati più volte alle scuole medie di Torrita, che ora non si chiamano più medie, ma comunque ci siamo intesi, le medie e abbiamo fatto ascoltare e vedere dei video per alcuni anni alle medie, poi siccome ci sembrava che fosse importante coinvolgere questi ragazzi e Alessandra appunto ha avuto l'idea di far fare questo concorso alle scuole che avrebbero voluto partecipare, cioè il blues visto con gli occhi di un bambino, perché nell'occasione gli insegnanti, di quali ringrazio, si sono cimentati su questa storia del blues e i ragazzi in base a quello che hanno acquisito o a quello che hanno percepito hanno fatto questi disegni, che vi devo dire che sono bellissimi, cioè veramente belli, una cosa straordinaria come questi ragazzi sono riusciti a cogliere l'essenza del blues, insomma. È vero, confermo. Forse la gioventù aiuta, nel senso l'innocenza aiuta a cogliere lati che perdiamo. Un'esperienza straordinaria veramente è stata. Prego, se vuoi fare un'altra domanda, altrimenti andiamo con un brano come vuoi te. Sei padrone della trasmissione. Vediamo. No, andiamo con un brano, me la tengo per dopo. Tanto sempre blues, ho parlato, ho suonato. Blues. Blues. Vorrei sapere qualcosa sull'organizzazione. Sì, poi però veramente parliamo anche del programma. Certo. Sì, ma indirettamente è così. Certo. Cain slew Abel, he said, knew not why. For if the children of Israel were gonna multiply, why must any of the children, oh Lord, why must they die? So he asked the Lord, and the Lord said, man means nothing, all he means less to me than the lowest cactus flower sitting on the humblest yucca tree. Chases around the desert 'cause he thinks that's where I'll be in a oh, that's why I love mankind. I recoil in horror from the foulness of thee, and all from the squalor and the filth and the misery. and how we laugh up here in heaven at the prayers that you offer me. And oh yeah, man, that's why I love mankind. Oh yeah, the Christians and the Jews, they're having a jamboree. Yeah, the Buddhists and the Hindus, they've been joining in on satellite TV. They picked their four greatest priests, oh, and they all began to speak. And they said, Lord, a plague is on the world. Lord, no man is free. The temples that we built to you, they're going down, down, down into the sea. Lord, if you won't take care of us, then please, please let us be. And the Lord said, oh, and the Lord said, oh Lord, abandon your city. How blind you must be. I've taken you and all of your children, and you see how blessed are thee. Now you all must be crazy to be putting your faith in me. Oh Lord, oh that's why I love mankind. You really need me, and that's why I love mankind. Dana Fix Band con Gazzon. Io veramente mi sento in imbarazzo a dire questi titoli davanti a, al nostro ospite, davanti a Luca Romani, che più andiamo avanti con la trasmissione più ci accorgiamo essere uno dei massimi esponenti quantomeno a livello italiano, ma forse europeo, e forse qualcosa anche di più su questa, su questo argomento, cioè il blues. E infatti siamo partiti dal fatto, dalla passione per la musica blues, per una ricerca un po' anche delle origini della musica blues, e questa cosa ha preso campo. E io volevo chiedere a Luca se in questo cammino, in questo percorso, come e quante persone ha potuto coinvolgere per portare la manifestazione di cui stiamo parlando questa sera ai livelli diciamo che ha raggiunto. Cioè oggi quanti siete? Ho tradotto. Bravo. Siamo pochissimi. La sintesi è allora, la sua dote chi ci dà una mano sono tantissimi, perché questa è una cosa che soprattutto nel momento in cui si svolge il festival ci voleva davvero tante persone in più. Organizziamo anche una cena il giovedì alle quali vi invito, perché così assaggerete le famose penne blu con una ricetta segreta. Lascia stare, meglio se mi dai, se mi vesti, diciamo, che mi dai. Se non altro per gestire una cena, gestire un festival così di persone ce ne vuole tante, e devo dire che tantissimi ragazzi e tantissime persone sono coinvolte. L'organizzazione invece è composta solo da 7 persone, in questo momento da 6, perché una persona ha avuto dei problemi suoi e quindi è un momento, c'è un momento stand-by. Sì. Quindi siamo 6 persone che ovviamente lavorandoci tutto l'anno con la passione e l'amore che comprendete, ecco, siamo alla ricerca di come rendere famoso, perché uno degli scopi è di promuoverla questa musica, e quindi ecco, noi ci impegniamo per questo. Si parlava prima delle scuole, ma ecco, noi organizziamo a chiunque chiede o ha bisogno di blues o di artisti blues, sa che se fa una telefonata a me piuttosto che a un altro avrà sicuramente un aiuto incondizionato e gratuito, perché noi siamo un'associazione culturale non a scopo di lucro, quindi nessuno di noi su questa storia guadagna una lira, però ci guadagna in amore, passione, soddisfazioni, sicuramente. Esatto. E gran parte dei festival li abbiamo iniziati noi, pensate, anche della zona, mi riferisco, ecco, ora ce n'è uno vicino Montalcino che è Camigliano, la stessa Massa Marittimo, lo stesso Tiferno Blues, lo stesso Trasimeno Blues, che sono venuti a Torrita, mi hanno detto Luca come si fa? Dico guarda, si fa bene, si invita degli artisti. Questo dimostra ancora di più l'amore per questa musica da parte vostra, tua, perché magari uno che viene da un paese nemmeno troppo lontano avresti potuto dire no, guarda, t'arrangi perché ci sono io, invece lo scopo è veramente quello. promuoverlo, quindi chi fa blues noi lo aiutiamo a promuoverlo senza me. Veniamo al programma, perché sarei tentato di farti altre mille domande, ma altrimenti non parliamo di quello che accadrà dalla settimana prossima. Quando inizia? Quindi hai detto inizia giovedì con una cena? Sì, anche questa vi racconto una curiosità. La cena blues è nata perché l'anno dopo l'uragano Katrina, sì, noi volevamo aiutare non solo New Orleans, ma volevamo soprattutto gli artisti blues che non avevano più dove suonare, essendo distrutta gran parte di New Orleans. Voi tra l'altro avete un gemellaggio. Perfetto, in quell'occasione noi parlammo con il comune di New Orleans, il quale ci disse volentieri, una grande iniziativa, quindi mandarono il responsabile cultura del comune di New Orleans, il quale portò, oltre che una serie di artisti che ovviamente fecero il cartellone di quell'anno lì, portò anche dei cuochi, perché voleva fare uno scambio non solo musicale ma anche culinario e culturale. E quindi portò questi cuochi. Noi pensavamo, ma chi viene a mangiare il po' boys piuttosto che la jambalaya, che sono piatti tipici di New Orleans? Sì. Tant'è vero, ma per quanti prepariamo? Ma ci preparate per un centinaio di persone. Ecco, dopo mezz'ora noi si era già finito tutto, non si sapeva più che dare a mangiare a questa gente. Da allora abbiamo detto, ma perché non si organizza una cena? Ovviamente è diventata da una cena di Udinza a una cena toscana. Beh, abbiamo lanciato le famose penne blues con questa ricetta segreta che non diciamo a nessuno e che a quanto si dice siano veramente un'apprezzata. È un motivo in più per andare giovedì prossimo, giusto? Il 23. Sì, anzi, vi invito a prenotare, perché più di 300 persone in piazza non ce le mettiamo. Ecco, ricordiamo anche la location di Torrita Blues, che è la piazza... Sì, è piazza del centro storico, si chiama piazza Matteotti, ma la piazza del centro storico, dove c'è il comune. Quindi c'è anche piazza, una location principale, meravigliosa, insomma, perché è affascinante. Sì, come nei nostri paesi, fuori, certo, anno, in ogni realtà medievale c'è queste piazze splendide dove noi facciamo... Questa, non per merito nostro, ma la cornice è sicuramente di grande ripresa. Quindi diciamo che per la cena di giovedì c'è da prenotare, rimandiamo magari anche alla pagina Facebook che avete di Torrita Blues, o al nostro sito. Esatto, perfetto, dove possono trovare tutti i contatti. E a questo punto anche noi siamo curiosi di queste penne, come sono. Ma siete tutti invitati, nel senso che non, cioè, ci mancherebbe, volevo dire. Vedremo di non mancare. Anche perché poi non è che si mangia e basta, si ascolta blues. Tra l'altro c'è due piccole particolarità quest'anno il giovedì. La prima è che abbiamo richiamato una corale, perché apriremo con la corale con il Parish Church Choir, che di fatto è il coro parrocchiale di Torrita, ma detto in inglese, ha tutto l'altro fascino, assolutamente, insomma, che tra l'altro si cimentano su questi corpi. Sono ormai già due mesi che si preparano, sono già bravi di suo, figuriamoci dopo aver preparato, quindi li aspettiamo. E dopodiché faremo, a proposito del racconto che vi facevo dell'European Blues Challenge che abbiamo fatto quest'anno a Torrita, il prossimo anno si svolgerà in Norvegia, noi ospiteremo le semifinali nazionali, quindi decideremo a Torrita una band che andrà alle finali, per poi che sarà in Basilicata, che poi rappresenterà l'Italia in Norvegia il prossimo anno. E questo è giovedì, mentre da venerdì inizia, diciamo, il clou. Raccontaci un po', fai come se non ci fossi. No, ovviamente, come potete immaginare, tutto sono fuori che obiettivo. Perché, ma deve essere perché così. Per me questi artisti che saranno a Torrita sono veramente di grande spessore. Alcuni li abbiamo proprio cercati e, come accennavo all'inizio, a volte è anche fortuna che siano in Europa, certo, perché non è che possiamo andarli a prendere. E di questi, il venerdì, io lo definirei, guardate, un'edizione rosa, perché in questa edizione sono tantissime le donne che si esibiranno sul palco di Torrita. Aprirà il venerdì Night Mo Rogers, che è un grandissimo tastierista, ha suonato con i più grandi artisti, ha fatto pezzi indimenticabili che ora non vi cito perché altrimenti diventerebbe troppo noiosa la cosa, che viene da solo perché è accompagnato da una grande band italiana che è la Luca Giordano Band. Quindi sarà questo artista americano come Stay Band, una band italiana. Tutta americana, invece, lui viene da Chicago. Invece quella che abbiamo ascoltato anche prima, sì, che è Dana Fuchs, è una ragazza, tra l'altro anche splendida in tutti i sensi, anche come voce, ma anche come donna. Lei nasce in Florida, però diciamo che la sua consacrazione avviene nell'ambiente newyorkese. e come si diceva all'inizio, proprio l'ha consacrata nel grande palcoscenico internazionale aver fatto questo disco con Joe Bonamassa, del quale appunto certo. mette in evidenza tutta la sua grande voce. Questo sarà una grande serata con due grandi show, veramente da non perdere. Venerdì 24. Mentre sabato 25. Ah, sabato 25 c'è un grande esperimento, si parlava di donne. Io voglio dirlo agli amici che ci ascoltano, ogni volta gli brillano gli occhi, cioè si vede realmente, oltre a sentirla, la passione e anche la fierezza di poter organizzare cose del genere. Ma sai, sì, davvero, anche perché, ripeto, cerchi di dare tutto te stesso per far poi recepire al pubblico che cosa hai portato, perché uno non se ne rende conto. E quindi facciamo questo esperimento, perché il sabato l'apre è davvero un esperimento. È il batterista di Tullio De Piscolo e Tony Esposito, perché con lui che è nato, si chiama Luca Giommetti. E tra l'altro ha suonato anche con Pino Daniele e con Zucchero con la batteria. Quindi un batterista di tutto rispetto. È un appassionato ovviamente di blues. Certo. E quindi lui si contorna di coriste che a volte hanno suonato con Zucchero, a volte con altre, e fanno questo show dove riscoprono quello di cui stiamo parlando, la musica nera, in particolare il blues. Quindi ci sarà questa band, che è un'idea sua, che avrà tre cantanti nere in questo caso, perché Donna Fux è bianca, tre cantanti nere che si esibiranno su delle, volevo dire cover, ormai l'ho detto, ma perché saranno delle reinterpretazioni di quella musica che noi normalmente conosciamo. Quindi l'inizio del sabato sarà proprio musiche di tutta che noi abbiamo ascoltato nella nostra excursus musicale dei periodi della nostra vita, quindi sarà un ricordare, veramente un tornare indietro su queste grandi canzoni americane e dei neri reinterpretate in questa chiave molto molto moderna da questa cantante di colore. E poi dopo c'è una grandissima band che è anni che noi inseguiamo, una grandissima band di Chicago, nasce nel 91, ma il chitarrista è da tempo che si esibisce insieme ad altri, quindi nel 91 forma questa Mississippi Hit a Chicago, dove nel panorama appunto forse più importante, perché i panorami blues negli Stati Uniti sono rimasti due a grandissimi livelli. Uno è Chicago, l'altro è Memphis. Poi c'è tutto il sud. Parlavo di Morgan Freeman, se è il caso poi... Me lo sono segnato, infatti. E quindi questa Mississippi davvero è una grandissima band di Chicago, che c'è anche lì una cantante nera che si alterna con questo armonicista. Che dire, ecco, è un'edizione da non perdere, ecco, veramente da non perdere. Mi sembra che il calore con cui ce l'hai presentata, chiaramente, anche per chi non avrà altri programmi, sicuramente. Forse li cambierà per venire a Torrita, sicuramente. Allora andiamo con un altro brano di blues e poi ci ritroviamo ancora insieme a Luca per parlare di Torrita Blues, la 28ª edizione. Edizione 2016. My neighbor keeps his wife at home and never lets her go out of sight. My neighbor keeps his wife at home and never lets her go out of his sight. What kind of man is that, I ask you, that won't treat his woman right? Her feet never touch the ground because he's afraid she might run away. He never let her feet touch the ground because he's afraid the pretty little thing might run away. What kind of man is that, people, that will treat a woman this way? Thank you. The woman can't get no thrill, knowing she's got no happy life. The woman can't get no thrill, because she's got no happy life. Tell me, what kind of man is that that don't care nothing about his wife? Mai nella mia vita avrei pensato di disannunciare brani di questo genere, ma per colpa mia, non perché, no, anzi, proprio, cioè, forse è troppo elevato. Siamo soli noi. Mississippi Heat con What a Kind of Man Is That? Che tipo di uomo è questo, però, quello, quell'altro e quell'altro ancora. Siamo ancora insieme su Radio F, e questa sì, è Piazza Alta, certo. È venerdì sera, ma questo parliamo, lo sapete. Parliamo di Torrita Blues e del blues. E con tutto quello lo facciamo che... con Luca Romani, Luca Romani, che è il presidente fondatore di questo ormai festival a livello internazionale, vorrei dire mondiale, ma lo è. Direi, Enzo, che oltre a chi ci ha ascoltato in diretta, chiaramente, ma lo potrà fare poi anche nei prossimi giorni tramite il podcast, chi conosce il blues sicuramente ha apprezzato quello che è stato detto e anche le canzoni che il nostro Simone ha selezionato. Ma secondo me in tanti potrebbero aver avuto la scintilla della curiosità di approfondire un genere musicale che è nel nostro quotidiano, ma forse merita un po' di ricerca storico-musicale per capire da dove viene. E guarda, sono talmente d'accordo con te, anzi no, senza talmente, sono d'accordo con te perché l'hai stillata in me questa curiosità, non nascondo la mia, ormai l'ho detto dall'inizio della trasmissione, ignoranza in questo settore della musica, però in realtà solo ascoltare la passione con la quale Luca ci racconta tutte queste cose suscita una curiosità e la voglia di ascoltarlo. E infatti io sono stupito anche del movimento che ci ha raccontato Luca, cioè delle manifestazioni a livello internazionale che ci sono, che della qualità artistica diciamo che vengono degli artisti che vanno sul palco ad esibirsi, e diciamo anche a questo punto anche della capillarità in cui magari nei vari stati, nelle varie nazioni, si può, anche europee, si può trovare delle manifestazioni come quella di Torrita Blues. Sì, sì, certamente. Allora, io direi questo, siccome il tempo purtroppo anche stasera è letteralmente volato via, ricordiamo che sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale di Torrita Blues potete trovare tutte le informazioni e tutti gli eventi di cui abbiamo anche, ahi noi, velocemente parlato questa sera, e anche il modo di poter prenotare per la cena di giovedì a cui noi già partecipiamo, lo diciamo. Piatto consigliato sono le penne blues. Sì, anche perché il menù è fisso. Perfetto. non è alla carta. È un'occasione per ritrovarsi. Giustamente. Se volete io ve lo dico, sono le famose penne blues come primo. Perfetto. Ci sarà il prosciutto al forno con fagioli. Blues. Ovviamente. E poi dolci della casa, perché le cucinano le nostre donne, non solo. E quindi sono tutti i dolci fatti in casa che usano, acqua e vino. Le bibite saranno rhythm and blues. Certo. Oh, però durante la serata ci hai accennato a Morgan Freeman, mi è rimasta questa cosa al punto tale che me la sono segnata. C'è un aneddoto su Morgan Freeman? Sì, perché Morgan Freeman non si è scordato le sue radici. Lui nasce a Clarksdale è uno delle cittadine del sud, quindi del Mississippi, tra le più famose perché ha dato i natali, anche se lì nei dintorni, ai più grandi musicisti blues, a Muddy Waters, Ike Turner, c'è morta Bessie Smith, dove noi abbiamo dormito, a Riverside Hotel. E a Clarksdale Morgan Freeman ha un jock joint, che erano i locali che frequentavano neri dopo aver lavorato tutto il giorno in queste piantagioni di cotone, e si divertivano in queste, che sono stranissimi, e sono stranissimi perché è proprio tipico dei neri, insomma, e lui ha voluto che rimanesse così perché gli ricordava le sue origini, e questo paradossalmente questo locale si chiama Ground Zero, che ricorda, e questo locale dove poi si esibiscono ininterrottamente artisti, e ovviamente suonando blues, e lui spesso è dietro il banco che serve queste cose. E quindi lui, ecco, siccome noi ci siamo stati, abbiamo fatto un pellegrinaggio perché siamo andati a trovare anche tutte le tombe di questi nostri miti, e quindi siamo andati a vedere dove era la tomba di Robert Johnson piuttosto che di Sonny Boy Williamson e di tanti altri di Patton, insomma, che anche qui sarebbe da ogni tomba una storia, perché se l'avete vissuto fino in fondo. Sì. Quindi in questo pellegrinaggio ovviamente siamo stati lì e abbiamo dormito nella camera vicino a dove è morta purtroppo Bessie Smith, perché quella non si non tocca, però lì accanto ci ha dormito Muddy Waters, e quindi abbiamo avuto l'onore di dormire in questo albergo che è di mezza categoria, nemmeno di prima, perché veramente sta rimasto com'è, gli standard sono quelli dell'epoca, è chiaro che... E quindi Morgan Freeman ha lasciato tutto com'è, e lì a Clydesdale, oltre questo, ha uno studio di registrazione, ha ovviamente... Prima probabilmente viaggiava in treno, ora arriva in elicottero, insomma, probabilmente sì. Però conserva ancora le radici, e sempre a Clydesdale c'è una famosissima scuola di musica blues dove abbiamo assistito alle lezioni ai bambini, questi bambini neri che da piccolissimi sono blues. Meraviglioso. E volevo chiudere con quest'ultima domanda. Suoni tu? No. Vedi, cioè, no, io ascolto. Ma perché gli prenderebbe tempo? Non avrebbe tempo per ascoltare, no, ma realmente non suoni proprio, oppure no, diciamo che sei modesto. Io, quindi... per fortuna della musica, ho iniziato a suonare la batteria, poi ecco, ho capito che non era il caso, e quindi il blues era però bello, con l'orecchio musicale. Beh, senza dubbio, per questo mi è rimasto, quindi... Benissimo, io direi che siamo arrivati in fondo. Vuoi fare un'altra domanda, Marcello? No, ci diamo appuntamento a Torrita Blues giovedì prossimo sicuramente. Allora, ringraziamo quindi ancora Luca Romani, presidente e fondatore del Torrita Blues, che è giunta alla 28ª edizione e che partirà giovedì 23 giugno a Torrita, ovviamente non potrebbe essere altrimenti. Rinnoviamo a tutti l'invito ad andare a visitare le pagine Facebook ed internet di Torrita Blues, così che troverete gli appuntamenti, gli orari e tutte le informazioni che vi servono per questa edizione in rosa, come l'ha definita Luca, certo, di quest'anno. E un piccolo appunto, una constatazione: io ho nelle orecchie i virtuosismi, è una cosa tipica del blues. Sì. Sì, gli assoli nascono da lì, e le improvvisazioni che qualcuno, il mondo del jazz, si appropria è blues, quindi viene dal blues, quindi gli assoli sono tipici di questa vedi musica. Che sei riuscito a sentire ancora meglio in zona Cesare ancora meglio Luca, che ha potuto rivendicare anche questa cosa qua. Ringraziamo quindi Luca Romani davvero per questo tuffo che ci ha fatto che fare. Solo le pitture rupestri non siano blues. non è detto perché i murales che si vede in questo pellegrinaggio, uno dei quali è una foto che abbiamo fatto a B.B. King, a quale abbiamo dedicato questa edizione perché è morto nel 2015, il manifesto è un murales di B.B. King, perché lui è nato a Itabena, vicino a, ovviamente, anche se il suo museo, la sua vita è in Indianola, ma siamo sempre nelle zone di Clydesdale, nel Mississippi, insomma. E questo è il murales, che è una fotografia di B.B. King ripresa da mi faccio vedere anche nella nostra a questo camera. Punto Enzo, io mi arrendo. No, beh, direi che tutto parte dal blues, questo l'abbiamo capito. Grazie ancora allora Luca Romani, vi invitiamo ad andare al Torrita Blues a partire da giovedì prossimo. Noi speriamo di rivederci l'anno prossimo ancora per parlare di blues, perché no? Io vi ringrazio di cuore per quello che fate o che farete per il blues, e quindi questa è stata un'occasione per me, è un piacere, un onore davvero essere ospite vostro, quindi davvero vi ringrazio perché a te, blues, ecco, sicuramente non morirà mai, ma se se ne parla è meglio, certo, insomma. Grazie ancora, l'appuntamento è per venerdì prossimo. Ricordo che c'è anche un trekking domenica prossima organizzato dalla Proloco di Foiano, troverete tutte le indicazioni nella loro pagina Facebook. Noi andiamo giovedì sera a mangiare sicuramente la pasta al Torrita Blues. Toccheremo con mano il blues, e allora, e soprattutto con lo stomaco toccheremo con forchetta il blues. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci risentiamo venerdì prossimo, trovate tutti i nostri appuntamenti sulle nostre pagine, e Radio F sarà sempre con voi anche nel fine settimana. Buon ascolto dalle F Frequenze.